Finché vedo tutto. Finché vedo tutto. Finché vedo tutto. Finché vedo tutto. Viola, viola, viola, viola, viola. Si scioglie ogni cosa. Violaceo che fumo, violaceo che verso. Coccodrillo verde cucito sul petto. Chiuso nella casa coi quadri a rovescio. Passa col resto, la moda passa fra la squadra. Resta nel tempo, quanta ne verso. Maca che scende in fondo alla bottiglia. Fra ce la passiamo di mano per mano. Lo sai, lo facciamo pure con tua figlia. Chiamami dopo che ora sto mixando. Oppure fumando, oppure scopando. Una tipa random. Lo sai fra come lo faccio. Fanculo se non ti piaccio. Tu non piaci a me, non piaci a Charlie. Fra nemmeno a Brian. Ci sentiamo i piazzi e ridiamo di te. Vediamo maca, fanculo al Moe. Fanculo anche a te, fatto nel privé. Ma fianco ai sei tipe che sommate ne fanno tre. Né fra che ne fanno tre e le passano a me. E lo so che tu vorresti farlo come noi. Analgesici nella Fanta mentre fumi il joint. E anche mamma te lo dice di non bere troppo. Senza laurea fra sono il farmacista